Liberi Dentro Eduradio, il programma che fa da ponte tra il carcere e la città. Giovedì 12 agosto, buongiorno a tutti da Antonella Cortese e un caro saluto alle persone detenute dalle case circondariali dell'Emilia Romagna e del carcere della Dozza. Bentrovati su Liberi Dentro e su Radio TV, la trasmissione che fa ponte tra il carcere e la città e che va in onda su Radio Città Fuggico, Teletricolore e Lepida TV. È con noi Ignazio De Francesco, volontario AVOC, che conduce con me Caterina Bombarda la trasmissione per tutto il mese di agosto. Buongiorno e bentrovato, Ignazio. Buongiorno a te e a tutti, ma se mi consenti, oggi vorrei dire in particolare buongiorno a chi fosse entrato in carcere ieri o l'altro ieri, il primo shock, e magari a un compagno in cella che è una compagna che sente Eduradio TV. Sappiamo quanto è difficile per te in questo momento. Niente, ti siamo vicini, veramente con tutto il cuore. Tieni duro e ce la fai. Eh sì, ti siamo tutti vicini, ci uniamo tutti alle parole di Ignazio e ringraziamo anche chi ci permette di stare vicini a voi, cioè tutti i donatori che hanno partecipato al crowdfunding, che ci permettono ad agosto e a settembre di essere ancora con voi, di entrare nelle vostre celle. E a questo punto però, Ignazio, oggi di che cosa parliamo? C'è un ospite, una lettura in particolare? Sì, oggi abbiamo Luana che ci manda un testo molto, davvero molto ricco, molto, molto stimolante per tutti. Ed è un testo che ci racconta qualcosa di lei, immagino. Sì, leggo qualche cosa, quello che si può leggere, anche se è un testo che lei l'ha scritto come testo pubblico. Dice: sono una detenuta, tra parentesi, che è brutto usare questo termine. Ho lavorato tutta la vita in un bel settore, sono stata fortunata ad occuparmi di un impiego che mi piaceva e mi dava molte soddisfazioni. Carriera, guadagnavo abbastanza per potermi permettere vacanze, una bella casa, auto. Insomma, ho avuto una vita migliore di tanti altri. Entrando qui dentro, ho cercato di mantenere il mio equilibrio, mi sono iscritto all'università, ho lavorato, adesso ho la pensione, fuori una bella famiglia e tanti amici che mi aspettano. Insomma, sto cercando come posso di trascorrere il mio tempo qui al meglio. Ma è veramente molto difficile trovare forza in questo mondo. È un mondo, una parte di società molto particolare, una società soprattutto piena di dolore e di storie tristi, pesanti e crudeli. Mi sembra molto bello questo inizio di questa lettera che ci fa incontrare una persona come tante, una persona speciale, perché nessuno è uguale agli altri, e ognuno è unico, ma ci dà un profilo. Infatti è così, Ignazio, ma lei come vede, come osserva l'ambiente nel quale si è trovata a vivere? Ecco, qua è il passaggio della sua lettera in cui categorizza, diciamo così, le persone detenute in tre categorie. Dice: quelli che in qualche modo hanno durante la vita replicato molte volte i reati, quasi facendone una sorta di professione. Poi c'è tutto il mondo della tossicodipendenza, magari tanti reati anche piccoli, ma un effetto di trascinamento delle sostanze. E poi parla di un terzo punto, che è quello che più mi colpisce, ci colpisce tutti, quello che lei chiama i blackout. Sentiamo cosa scrive. Io chiamo così tutte quelle persone che hanno sbagliato una sola volta nella vita. L'unicità dello sbaglio non rende meno grave la colpa ed è giusto che venga espiata, ma i trattamenti rieducativi all'interno del carcere dovrebbero tenere conto di questo blackout che ha colpito le loro menti e che potrebbe accadere a tutti. La vita di queste persone prima è stata spesso una vita normale, senza macchia e un errore. Uno. E non è giusto che distrugga tutto questo errore, quello che è stato gli affetti, il lavoro, la dignità, l'onore. E mi colpisce molto perché io lo dico qua chiaramente senza avere. Io potrei essere uno di quei blackout, e anche Antonella e anche tanti di quelli che ci ascoltano in città. Il rischio del reato unico, del maledetto pomeriggio, è un rischio che riguarda tutti. Ignazio, è proprio così. Aver trovato una parola come blackout è veramente illuminante. Senti, ma secondo te non sarebbe utile che anche i giovani potessero fare queste riflessioni e ne sapessero un po' di più su questo argomento? Sì, e qua è Luana che parla alla fine della lettera dell'esperienza di educazione alla legalità, un progetto che purtroppo si è fermato per per la pandemia, ma che faceva incontrare persone detenute con studenti di terza, quarta e quinta superiore. E lei dice che durante questi incontri si percepiva all'inizio della seduta una indifferenza, una diffidenza palpabile da parte dei ragazzi. Poi qualcuno di noi prendeva la parola, raccontava la propria storia, rispondeva alle loro domande, pian piano l'atmosfera cambiava, i ragazzi diventavano più curiosi, interessati e molto vicini a noi. E allora si abbatte quel muro, le persone detenute sono parte di noi, sono un pezzo della nostra storia e quindi è giusto fare questo ponte tra carcere e città, anzi se Luana mi ascolta io vorrei invitarla a scriverci ancora un testo, come si evita il blackout? Ignazio, hai proprio ragione, invitiamo Luana a scriverci e a continuare a stare con noi. E per stare ancora con noi le dedichiamo un brano. Che brano dedichiamo a Luana? Allora, abbiamo una cantante siriana armena, che canta per Luana in particolare e anche per Michele, che ho visitato recentemente, Ohibbu Yadeika, che vuol dire amo le tue mani, di Faya Yunan. أحب يديك وأكثر أكثر أحب بلادي Aver ascoltato Faya Yunan, oggi torniamo su un argomento sensibile, noi l'abbiamo trattato molto spesso, la sostenibilità e il lavoro. E, le donne di Zanzibar hanno trovato un modo per guadagnarsi da vivere prendendosi cura dell'ambiente. L'innovativa cultura delle spugne marine sull'isola tanzaniana crea posti di lavoro, promuove lo sviluppo delle comunità costiere soprattutto e contribuisce alla preservazione dell'habitat. sempre più minacciato dai cambiamenti climatici e dallo sfruttamento intensivo delle acque, che è un problema che ormai sta diventando dilagante. Però cominciamo con una storia, la storia di Nasir, che è una giovane donna divorziata con 3 figli da crescere, che aveva provato a procurarsi da vivere coltivando alghe, come molte persone facevano, soprattutto a Zanzibar, ma poi il cambiamento climatico ha interferito terribilmente con questo tipo di coltura, rendendola più faticosa, incerta e sempre meno remunerativa. Per fortuna un'amica di Nasir un giorno le ha parlato delle spugne di mare, delle loro virtù e delle possibilità di avviare questa piccola factory. Nasir quindi ha deciso di provare e così finalmente ha trovato la sua strada. Oggi è in grado di assicurare ai figli da mangiare e anche una buona istruzione. Il passo prossimo, spiega, sarà proprio la casa. Ogni giorno, prima di recarsi alla piantagione marina, prepara i suoi attrezzi, che poi sono la maschera, gli stivali e le lenze per appendere le spugne. Chi alleva spugne deve controllare regolarmente che non ci siano corpi estranei, alghe o cianobatteri a interferire con la loro crescita, e per circa 9 mesi vanno pulite e rifilate, così da dar loro quella perfetta forma rotonda che è richiesta dal mercato. Di solito una spugna ha bisogno di un anno per crescere e a volte anche di più per raggiungere proprio il punto di raccolta. E quali sono allora i progetti a sostegno di queste attività? Ignazio, diverse donne stanno seguendo l'esempio di Nasir, per fortuna, e sono state formate da una ONG che si chiama Marine Cultures, che dal 2008 lavora perseguendo l'obiettivo di stabilire l'allevamento di spugne nella regione. Le allevatrici di spugne si incontrano sulla spiaggia, a volte nei loro kanga, cioè i tipici parei tanzaniani di cotone, caratterizzate dalle presenze di scritto proverbi, camminano con in mano i boccagli e le maschere, i borse, rete e coltelli e si dirigono verso queste coltivazioni sommerse. Esiste una sola manciata di allevamenti di spugne al mondo, soprattutto negli stati federati della Micronesia e in altri paesi del Pacifico. Questi sulla costa sud-orientale di Unguia sono i primi nell'Oceano Indiano Occidentale, quindi ancora anche per questo molto importanti. Gli allevamenti di spugna sono stati istituiti tra il 2010 e il 2011, quando la squadra della ONG Marine Cultures ha raccolto 600-800 frammenti di spugne da tutta Zanzibar per creare un vivaio in acque più profonde. Una domanda che credo che si pongano in molti: ma le spugne sono piante o animali? Allora, le spugne sembrano piante, in realtà sono organismi animali molto semplici, che non hanno bisogno dell'accoppiamento per riprodursi, tanto per dire. Ne esistono di diverse specie, quella utilizzata per la detersione del corpo ormai da secoli è la spongia officinalis. Il loro uso, penso Ignazio, è documentato dal IV secolo a.C. e secondo l'amministratore delegato di Marine Cultures, circa il 99% delle spugne vendute nel mondo non proviene da allevamenti controllati, e questo pone seri problemi ecologici. La raccolta, infatti, ha in gran parte spazzato via le popolazioni di spugne autoctone in altre parti del mondo, Mediterraneo incluso. Infatti un tempo era la Grecia il centro di questo commercio. Negli anni 30 i SUB raccoglievano nel Mediterraneo quasi 350 tonnellate di spugne l'anno. Poi si sono esaurite e la rotta è stata Cuba. E spesso è capitato che però le spugne caraibiche fossero spacciate per greche. Comunque, vabbè. Molti allevatori oggi si sono stabiliti in Florida, a Tarpon Springs. Voglio leggervi soltanto quello che ha riconosciuto Robert Jones, responsabile dell'acquacoltura globale presso The Nature Conservancy, che dice che l'acquacoltura sostenibile può essere un potente strumento per generare reddito, consentendo la protezione dell'ambiente. E questo è molto importante. Bene, fermiamoci qui e dai, che cosa proponi? E allora io vi faccio ascoltare una musicista cantante che mi piace tantissimo, che si chiama Rokia Traoré. La canzone si chiama Ka Munke. Che cosa posso fare? Che è la traduzione. È una canzone d'amore. Tra l'altro Rokia Traoré ha avuto anche una vicenda giudiziaria un po' controversa ultimamente, legata all'affido di una figlia per la quale poi è finita dietro le sbarre in Senegal prima e a Parigi dopo. Comunque ascoltiamola, è bravissima. Thank you. ideno mamma ma come va ne va ma to donga man kan kamunke de anya mon kamunke ma a kamundi na de anya mon kamunke de anya mana wara nya do ma moni vinya tela don le di se ti e tu ko wen na mai i du so de ni so de a kamunke de anya mon kamunke ma Kamundi, ena di anya mona kamundi. Di anya mana wara nyadoma, moye kela don leginza kamunge. Mere donge, kone wala fanya mana donye ala. Mere dondi, nala wala banya mana dondi. Wallahi mere dondi, nala wala banya dondi ala. Kone Rieccoci dopo Rokia Traoré con Kamunke e do la parola alla nostra Caterina Bombarda e alla sua intervista a Franco Bonisoli. A voi. Ben ritrovati sempre su Liberi Dentro e Euradio TV e riprendiamo la nostra chiacchierata con l'ospite della settimana. Ciao Franco. Ciao Caterina e buongiorno a tutti gli ascoltatori. Franco Bonisoli, per chi non avesse ascoltato le nostre puntate nei giorni scorsi, ex detenuto ed ex membro della lotta armata. E stiamo parlando, abbiamo ripercorso un po' gli anni della lotta armata, poi gli anni del carcere, oggi parliamo del passo in più che Franco ha fatto in questi anni, cioè la giustizia riparativa, quel dialogo impossibile. E attraverso l'incontro con i familiari delle vittime in carcere, percorso che tu, Franco, hai continuato anche una volta uscito. E da questi incontri è nato anche il libro che vi mostro, Il Saggiatore Milano 2015, il libro dell'incontro, Vittime responsabili della lotta armata a confronto. E ti chiedevo appunto, Franco, hai incontrato tra i familiari delle vittime proprio Agnese Moro, figlia di Aldo Moro. Che significato ha avuto per te questo incontro? Allora, ho avuto questo incontro con Agnese Moro dopo alcuni anni che avevo già incontrato all'interno del carcere alcuni familiari. E poi ho finito la mia pena, nonostante le grandi condanne, grazie alla legge sulla dissociazione, alla legge di riforma penitenziaria, alla legge Cozzini, no? E quindi sono riuscito a essere libero e in pratica aver pagato tutto il debito con lo Stato. Il punto è stato un problema di coscienza di voler incontrare le persone se loro fossero state disponibili a cui noi avevamo fatto del male. E io sono stato appunto condannato a ragione per il sequestro e l'omicidio di suo papà e sono riuscito ad incontrarla, ci siamo incontrati attraverso anche i tre mediatori che hanno curato il libro che hai fatto vedere prima, no? Padre Guido Bertagna, Adolfo Ceretti e Claudio Mazzuccato, che hanno con me e altri miei compagni di pena e alcune vittime iniziato un percorso di incontro. Allora, il significato dell'incontro con Agnese Moro è stato per me qualcosa di, potrei dire, di miracoloso, perché l'incontro con le vittime io ho sempre inteso come una esigenza di sentire, mettermi a disposizione per un eventuale dialogo di comprensione umana, se questo sarebbe servito a loro ad alleviare anche minimamente il loro dolore, ma non pensavo niente di più, no? E anzi, se fosse stato accettato, qualora veniva accettato, basta, pensavo che tutto si dovesse poi chiudere lì. E invece in questo percorso, perché parliamo proprio di un incontro che è diventato poi un percorso grazie all'apporto anche di tante altre persone che hanno sempre agito anche a titolo di volontariato, è stato un percorso di incontro e di chiarimento fondamentale. E ne è nata addirittura un'amicizia, un'amicizia che oso dire con la maiuscola, perché sono convinto che se si ha il coraggio di incontrare le persone a cui noi abbiamo fatto il male, cui pensiamo che ci siano storie totalmente incommensurabili, incomunicabili, invece proprio lì, dove c'è un dolore da una parte e un dolore dall'altro, dove il rapporto diventa più sincero, più vero e più profondo, come non avevo mai provato. Franco, una piccola pausa musicale e tra poco ci racconterai in che modo questa giustizia è stata riparativa anche per te. A tra poco. Il profilo della vita tra le cose, e anche il buio serve ad immaginare la ragione che ci invita a provare. So che può far bene anche gridare per riscattare l'anima dal torpore. So che ad ingannarmi non è l'amore, perché voglio amare, io voglio vivere. Ma sulla pelle mia io voglio amare e farmi male, voglio morire di te. Io voglio vivere, ma sulla pelle mia io voglio amare e farmi male, voglio morire di te. Sempre un po' precario, libero l'istinto, ciò che mi sostiene, emozione nuova senza nome, la ragione che ci invita a continuare. Per questo problema non ho soluzione, io mi sento vittima e carceriere. So che ad ingannarmi non è l'amore, perché voglio amare, io voglio vivere. Ma sulla pelle mia io voglio amare e farmi male, voglio morire di te. Io voglio vivere, ma sulla pelle mia io voglio amare. Ben ritrovati dopo la pausa musicale, siamo sempre a colloquio con Franco. Oggi il tema è la giustizia riparativa. E per l'appunto mi interesserebbe sapere, forse anche a tutti i nostri radioascoltatori, telespettatori, quando si parla di giustizia riparativa, come appunto riparazione al rapporto tra vittima e reo, in che modo è riparativa questa giustizia, in particolare per te? Ecco, la cosa importante, provo a farlo attraverso l'episodio di un incontro, quando l'ho incontrata, ho avuto l'incontro con lei e con i tre mediatori, no, che hanno aiutato in questo dialogo, che è stato un dialogo molto tranquillo. E a un certo punto io ho chiesto ai tre mediatori di lasciarci soli e ho detto ad Agnese, ho detto, guarda, io sono qui, tu sai qual è la mia storia, puoi chiedermi qualsiasi cosa del passato che ti possa interessare. E lei mi ha detto, no, tranquillo, io non ti voglio chiedere niente rispetto al tuo passato, voglio che tu continui a parlarmi di quello che sei oggi, cosa stai facendo, la famiglia che hai costruito, i tuoi rapporti, eccetera, eccetera. E questa per me è stata una cosa enorme, perché lì in quel caso mi sono sentito profondamente riconosciuto come persona quale sono, non più il mio reato. Io ero anche questa duplice cosa, ma lì mi sono sentito riconosciuto da lei in pieno, in tutta sincerità, proprio per la persona. E questo è stato estremamente liberatorio per me. E quindi quel senso di colpa che io mi portavo dentro, quando poi, quando fai la lotta armata, quando fai le azioni violente, pensi di essere nel giusto e pensi e non pensi a niente. Poi succede che quando ti rendi conto di aver fatto delle gran cavolate, dei grandi errori, perché non avevano senso, erano sbagliati, no? Anche così, allora ti comincia a nascere un senso di colpa, che allora cerchi di difenderti da questo, e però questo ti ingabbia di più del carcere. Lì mi ha permesso di liberarmi da questo mio complesso di colpa, più o meno mascherato, più o meno nascosto, più o meno evidente, liberarmi e cominciare a trasformare un senso di colpa in un senso di responsabilità. Ecco, io mi sono sentito accettato e responsabile quindi di quello che era il mio passato e di come essere nel presente. E questo è stato qualcosa di estremamente importante. Da qui poi l'idea di continuare a rendere testimonianza soprattutto ai giovani quando ci chiamano del nostro percorso e quindi anche del mio percorso, lo faccio proprio pensando che questo sia un senso di responsabilità al quale io devo rispondere positivamente, e questo per me è estremamente liberatorio. Franco, proprio sul senso liberatorio ritorneremo anche domani, perché tu hai fatto anche yoga mentre eri detenuto e continui tuttora questa bellissima attività, e ne parleremo domani, quindi rimanete con noi sempre su Liberi Dentro. Grazie Franco e a domani. Grazie a voi, buona giornata. E rieccoci di nuovo insieme dopo l'intervista di Caterina Bombarda a Franco Bonisoli. Si conclude qua la nostra mattinata, la nostra giornata insieme, possiamo dire, però non cambiate canale, perché in realtà subito dopo c'è l'Associazione Antigone con il bellissimo programma Jailhouse Rock, il podcast che parla di musica e di carcere. Ascoltatelo e guardatelo. Poi vi ricordiamo che da lunedì a venerdì siamo sempre con Liberi Dentro su Radio Città Fuggico, Teletricolore e Lepida TV. E le rubriche, oggi parliamo di le nostre rubriche che trattano tantissimi argomenti diversi, saranno comunque sempre presenti anche nel weekend, quindi tutta la settimana rimaniamo insieme. Intanto vi salutiamo per darvi appuntamento a domani, quindi un saluto da me, Antonella Cortese, Caterina Bombarda, Ignazio De Francesco e Nea Flacco. A domani! Liberi Dentro Eduradio, il programma che fa da ponte tra il carcere e la città.